Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Verso le 4 del pomeriggio trovammo da sedere e lì incominciò la vera festa. Bruno ballava insieme degli americani, noi fraternizzavamo con altre persone ai tavoli attigui. Anche se nessuno parlava il tedesco o l'inglese, ci si capiva lo stesso molto bene. Ciao, io sono Rino D'Amato, abito a Sesto Calende, in provincia di Varese, sul Lago Maggiore. Sono sposato, ho due figli e la mia storia è una storia di tradizioni, di come nasce una tradizione. E visto che parliamo di tradizioni oggi nella puntata di Rino, una delle tradizioni che abbiamo creato da 4 anni a questa parte è quella di chiudere la stagione del programma, la stagione di in qualche modo anche di Radio 24, che ha più o meno una stagionalità, estate, autunno, inverno, primavera, con un evento dal vivo che quest'anno è un vero e proprio spettacolo. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui. La tradizione di cui parlavo invece è il live di Voi Siete Qui, che è il giovedì 26 di giugno 2014, ormai lo diciamo tutti i giorni quindi non potete sbagliarvi, giovedì 26 giugno 2014, e da qualche giorno sono ufficialmente aperte le iscrizioni, c'è un form da compilare, una sorta di scheda online da compilare. Per farlo andate sul nostro sito radio24.it, alla nostra pagina Voi Siete Qui, vedete scritto live Voi Siete Qui, ci cliccate sopra e compilate, sono semplici dati, nome, cognome, eccetera eccetera. È totalmente gratuito, quindi non dovete pagare nulla, basta che compiliate e cliccate su invio. Quella roba lì vi dà l'accesso alla serata, è una prenotazione che si terrà, vi ripeto, il 26 di giugno alle 21.30 qui nella sede di Radio 24, alla Sala Collina, alle ore 21.30, l'ho già detto, in via Monterosa 91. Ma parliamo di tradizioni, lo facciamo in maniera più ampia e più approfondita grazie ad una storia, è quello che facciamo tutti i giorni, raccontiamo una storia, cerchiamo di raccontare un pezzo del mondo di quella persona, un pochettino un pezzo di mondo di chi ascolta e in qualche modo quella storia l'ha condivisa. 349-238-6666 il numero per mandare gli sms, è sempre quello lì, oppure Voi Siete Qui Radio 24 se avete un profilo Facebook e volete cliccare mi piace sul nostro, se avete invece uno smartphone e state smanettando con Twitter, Voi Siete Qui R24. Marco scrive: io ho fatto nascere una tradizione, la tradizione familiare di bere citrosodina tutte le sere dopo le cene di Natale, citrosodina e limone. Marco, fortuna solo le sere di Natale, perché da come è ripartito credevo citrosodina tutte le sere e finisci con lo stomaco bucato. Salvo, la tradizione è nata in famiglia, è quello di fare un giro in moto il primo weekend di gennaio, io, mio cognato e mio padre, fino a che ce la farà. Lo facciamo sui colli piemontesi, che ci sia pioggia, neve o vento. Primo weekend di gennaio, è tipo dopo Capodanno. Ettore, la tradizione che ho fatto nascere in famiglia è guardare le partite dei mondiali, visto che ormai mancano 2 giorni, sono i mondiali, le partite dei mondiali con una pizza che si mangia metà nel primo tempo e metà nel secondo tempo. Allora, ognuno, vabbè, per le partite di calcio poi ognuno c'ha la sua e non voglio entrare nel merito. Ettore, spero che quantomeno la si scaldi quella del secondo tempo. Antonella, era morta... Ah, la tradizione, scusa. La tradizione era morta e l'ho fatta risorgere. La tradizione di fare centrini per i nuovi venuti della famiglia. Tu pensa, Antonella, eh? Pensa che... Che culo i nuovi venuti con il loro bel centrino. 349-238-6666. È una tradizione piuttosto semplice quella di Rino. È frequentare un luogo dove si beve molta birra. Erano i primi anni 80, gli anni in cui sono diventato grande. Quando ho cominciato a lavorare, ho fatto il militare, ho conseguito la patente. Insomma, gli anni d'oro. Erano anche gli anni delle paninoteche, delle birrerie. Ed è stato così che ho iniziato a conoscere molte tipologie di birre, la doppio malto, la triplo malto e tutte le altre. A Omegna, sul Lago d'Orta, c'era un locale famoso che ne aveva moltissime e cominciò a farsi strada l'idea di andare all'Oktoberfest a Monaco di Baviera. Circolavano sull'argomento tantissime storie e leggende metropolitane, sui litri bevuti, ad esempio, chi 10, chi 20 e su tutte quelle avventure. Insomma, se ne parlò così tanto che decisi di andare in avanscoperta. Decidemmo di partire io, Antonio e Fabio. La mia macchina era una Golf con 4 freni a tamburo che necessitava di pompare alcune volte sul pedale del freno prima di frenare in modo deciso. Mancavano il freno a mano, la ventola del radiatore e la maniglia della portiera conducente, ma quello era l'unico mezzo a disposizione. Vedendo la macchina, la mattina della partenza, entrambi gli amici mi diedero buca, ma ormai, per me, l'impresa era partita. Infatti, la settimana dopo, dopo aver radunato altri 6 amici, partimmo. Romeo, mio fratello, il mitico Moreno, Filippo, Pelle, Larry e Bruno. Precisamente non avevo idea, avevo sentito tanti miti, tante cose legate all'autoperfetto. Sono rimasto molto soddisfatto, in effetti, diciamo che è stato tutto comunque sopra le mie aspettative. Io ho imbarcato sulla Golf Romeo, Moreno e Bruno. Gli altri ci seguivano con una station wagon omologata autocarro. Partimmo intorno a mezzanotte. Moreno aveva portato il solito thermos di caffè mischiato con il rum per tenerci svegli. Al primo distributore decidemmo di fare il pieno e di controllare l'olio. E meno male, perché il benzinaio aggiunse circa 4 litri e mezzo d'olio. Poco prima di arrivare alla festa, si accese la spia della dinamo. Allora cercammo un meccanico per cambiarla. E finalmente, verso le 10 di mattina, arrivammo alla festa. Arrivammo a piedi dal punto più alto, dalla parte della statua Bavaria, e il colpo d'occhio fu straordinario. Migliaia di persone, centinaia di autobus parcheggiati, stand enormi delle birrerie monachesi e musica folcloristica dappertutto. Girammo ore prima di trovare un posto a sedere. Ci rimpinzammo di brezel, il che di fatto peggiorò la situazione, in quanto la sete era diventata devastante. Verso le 4 del pomeriggio trovammo da sedere. E lì cominciò la vera festa. Bruno, con il braccio ingessato, ballava insieme degli americani. Noi fraternizzavamo con altre persone ai tavoli attigui. Anche se nessuno parlava il tedesco o l'inglese, ci si capiva lo stesso molto bene. Diciamo che l'Oktoberfest dura praticamente 15 giorni. Oltre a bere la birra, c'è anche un grandissimo parco giochi, un luna park immenso dove si può andare lì. Poi si può comunque avere anche dei piccoli stand dove si può mangiare anche bene senza necessariamente bersi litri di birra. E poi lì, essendo in centro a Monaco, comunque bastano 2 passi e poi c'è il centro a Monaco. Quindi oltre all'Oktoberfest c'è tutta la città che ti offre qualcosa. Ci ritrovammo alla statua verso le 11 di sera. A malincuore volgemmo lo sguardo verso la festa, un poco stanchi e un poco tristi. Al ritorno, appena fuori Monaco, ci si accese di nuovo la spia della dinamo e rimanemmo in panne. Romeo scese dall'auto, fermò un automobilista che ci chiamò un carro attrezzi e portò la macchina nel parcheggio di un'auto-officina. Lì dormimmo per tutta la notte. La mattina dopo, pur essendo domenica, il proprietario ci aprì le porte e ci cambiò la dinamo, facendoci capire che era del tipo sbagliato. L'aveva sostituita non facendoci pagare nulla. E visto che all'interno dell'autofficina c'era una spillatrice di birra, non ci siamo persi l'occasione per farci una birretta. Tornati a casa, eravamo tutti soddisfatti e contenti, tanto che Bruno tornò subito su la settimana dopo. Invece io e mio fratello con un'altra persona tornammo su l'anno seguente. Da lì a tutt'oggi non ne ho persa una. Tornando su con tante persone diverse. Ancora qualche volta con il mitico Moreno e quasi sempre con il mio amico Enzo. E quest'anno porterò su mio figlio Christian e gli darò un cappello di feltro dove attaccare tutte le spille dell'anno. Perché voglio che prosegua la mia tradizione e già che c'è, che porti suo papà all'Oktoberfest quando non sarò più in grado di guidare. Un giorno ero in macchina e stavo guidando per raggiungere un posto in campagna dove eravamo stati invitati io e la mia fidanzata per il fine settimana. Era sabato, l'indomani ci sarebbe stato il compleanno di una sua amica, della mia fidanzata. lei parlava al telefono con il marito di quest'amico e diceva: ci penso io, non ti preoccupare, io te la porto fuori e Matteo ti dà una mano. E poi aveva messo giù la chiamata e mi aveva detto: devo organizzare qualcosa, ho capito solo che la devo portare fuori per un paio d'ore. Io guidavo e guardavo dritto davanti a me. Avevo appena realizzato che avrei passato tutto il pomeriggio insieme a uno che avevo visto due volte in vita mia, da soli, io e lui, a preparare qualche scherzo per la festa di compleanno di sua moglie. La speranza in quel momento era che almeno il viaggio fosse il più lungo possibile. Invece il viaggio era stato molto breve e arrivammo quel pomeriggio era appena iniziato. Non abbiamo nemmeno fatto in tempo a scendere dalla macchina, nemmeno il tempo dei saluti, che mi sono ritrovato da solo col padrone di casa. Avrei avuto voglia di ritirarmi in camera, ma non avevo il coraggio di farlo e poi, nonostante tutto, lui aveva anche una faccia simpatica. Appena sentito la macchina delle ragazze allontanarsi, mi ha chiesto di dargli una mano. Io e te dobbiamo fare un capolavoro, mi ha detto. E mi ha messo in mano una ciotola piena di un impiastro giallastro che puzzava di uova e pecorino e poi se n'è andato. Quando è tornato aveva un sacchetto della spesa con dentro un portacaramelle di porcellana a forma di elefante. Era un oggetto orribile. Aveva gli occhi sporgenti, la proboscide tozza e una ceramica nell'insieme grigiastra. Ha messo l'elefantino al centro di una teglia dai bordi piuttosto alti e ci ha versato sopra l'impiastro che tenevo io nella ciotola. Speriamo che basti per coprirlo tutto, mi ha detto. Poi, quando il forno è diventato caldo, ce l'ha buttato dentro. Ed è stato solo a quel punto che ho chiesto esattamente che cosa stavamo facendo. È una tradizione della sua famiglia, mi ha raccontato. Quell'elefante è arrivato come regalo di compleanno a mio suocero quando aveva 7 anni. Era talmente brutto che dopo qualche anno, per scherzo, lo ha regalato alla sorella per il suo compleanno. La sorella, l'anno dopo, per vendicarsi, glielo ha restituito di nuovo. Da allora, e sono passati credo 50 anni, ogni compleanno i membri di questa famiglia se lo passano. Solo che la regola non scritta dice che se il festeggiato di turno scopre l'elefante prima di scartare il regalo, è libero di rifiutarlo fino all'anno dopo. Quindi si cercano nascondigli sempre più complessi. Negli anni è stato spedito nei 5 continenti, è stato fotografato e ne è stato fatto un puzzle da 5.000 tessere, è stato fatto a pezzi e sono stati regalati pezzetti. A me è venuto in mente di nasconderlo nella pizza al formaggio. Da come me la stava raccontando mi sembrava che tutto avesse una spiegazione abbastanza logica. La domenica, quando poi sono arrivati tutti gli altri amici, abbiamo chiesto alla festeggiata di smettere di giocare a ping pong e di darci una mano. Lei chiaramente era molto in guardia, sospettava di tutti, non voleva quella schifezza di elefante in giro per casa. Voleva anticipare gli eventi, ma non immaginava che ormai la trappola era tesa. Chiacchierando, ha preso il piatto su cui c'era una splendida, enorme pizza al formaggio, ha impugnato il coltello e ha affondato la lama. Nel momento in cui il coltello ha urtato contro qualcosa di duro, ci ha guardato incredulo e ha lanciato un urlo lancinante. Aveva capito tutto. Anche per quell'anno la tradizione era stata rispettata. All'Oktoberfest, Rino, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina Voi Siete Qui. Devo dire che descrivere questa foto è abbastanza in realtà è abbastanza facile, perché è vestito come sono vestiti quelli dell'Oktoberfest, che all'Oktoberfest è normale essere vestiti così. In giro sembra un po' un imbecille, nel senso che c'ha una camicia bianca e insomma della roba è un cappello in testa. Ha in testa quel cappello, il cappello di feltro che regalerà a suo figlio, ed è abbracciato a, devo dire, a un improbabile che probabilmente serve birra all'Oktoberfest. Pronto, Rino? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Sì, Beh. Tutto abbastanza bene, sono giù di voce, ma... Sento che sei giù di voce, cosa hai combinato? Sono andato a correre col temporale, è andata così. No, non c'hai molta voglia, Rino, oggi, preferiresti... Cosa stai facendo? Stai lavorando? Sì, sì, tranquillo. Che lavoro fai, me lo ricordi? Io sono un tecnico, facciamo impianti di macchine per conceria, smerigliatrici tessili, e io sono il jolly della situazione, cioè vado in giro a fare, a installare le sue macchine, le costruisco, le collaudo e bla bla bla. Quindi le conosci come le tue tasche, ste macchine? Insomma. Benissimo, questo è il passepartout per le macchine, per il collaudo delle macchine. Rino, perché sul tuo profilo Facebook, prima guardavo, c'è una foto in cui sei vestito da cuoco? Perché tra le mie tante cose che faccio, io, che mi piace fare, mi piace anche molto cucinare, fare ricette un po' particolari. Quali sono le altre cose che ti piace fare? Scusami, ne stavi parlando come se avessi decine e decine di cose, di passatempo. Sono appassionatissimo di fotografia, mi piace molto correre, Nordic walking... Mi piace il giardinaggio. Non c'hai voglia oggi, Rino. Scienze occulte, astronomia, insomma. Le scienze occulte, scusami, fermiamoci sulle scienze occulte. Cosa fai con le scienze occulte? Mi interesso. Ma ad esempio, fai un esempio di un libro che hai letto riguardo le scienze occulte che consiglieresti? Che consiglierei? Il magico potere della propria mente, che non mi ricordo più chi l'ha scritto, comunque. Vabbè, però sostanzialmente cosa c'è scritto nel libro? C'è scritto che la scienza ti dà delle risposte e per le altre risposte non ti puoi affidare alla scienza. Ah, ok. E quindi poi passi attraverso delle esperienze personali, insomma. Rino, quanti anni hai tu? Me lo ricordi che... In questo momento 49. Ne hai 49, ok. Però oggi veramente era meglio che avresti preferito rimanere a letto oggi, Rino. Sento che c'hai una voce... No, non c'è tempo per stare a letto. C'hai troppe robe da fare. Senti, tra le varie robe da fare, lo trovi il tempo per venire al live di Voi Siete Qui del 26 di giugno, che raccontiamo storie, che ci facciamo una sorta di festa finale? Il discorso che io sono molto legato al mio lavoro. Penso di essere in Algeria in quel periodo, però se non dovessi essere in giro, sì, volentieri. Ma no, io credevo fossi solo dalle parti di Sesto Calenda, invece no, vai in giro per il mondo con le smerigliatrici. Sì, praticamente l'ho girato mezzo. Sì, dimmi qual è il posto più assurdo dove sei stato, poi ti lascio andare che sento che sei veramente abbuttato, Rino. No, non c'è problema. Il posto più assurdo dove sono stato... A Cinquenta, nel Kazakistan, proprio una roba a lasciar perdere. No, adesso me la dici, Rino, scusami, non puoi dire fare una roba a lasciar perdere. Niente, Rino, ti lascio andare perché oggi sei abbastanza stanco. Senti, io ti ricordo comunque che il 26 di giugno noi facciamo live. Se non sei in Algeria, vieni e poi alla prossima Oktoberfest ci mandi una spilla anche a noi. Te la mando volentieri, tanto... Ormai sono lì di casa. Tra birre e boccali. Rino, grazie ancora. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Non aveva voglia, probabilmente doveva riposarsi Rino, quindi lo abbiamo lasciato andare. Chiara, ho creato la tradizione di tenere l'acqua per la pasta dopo averla cucinata per lavarci i panni in lavatrice, usandola al posto dell'ammorbidente. Questa non l'ho capito bene, sembra una roba un po' eco qualcosa. L'acqua della pasta per usarla al posto dell'ammorbidente. 349-238-6666. Abbiamo chiuso anche oggi. Prima però voglio leggere il messaggio di Ettore, che è quello di prima, era quello della pizza tra il primo e il secondo tempo. Dice: senza scaldarla, la pizza va mangiata rigorosamente fredda. Olè, tra due giorni cominciano i mondiali, tra un po' di più invece il 26 di giugno c'è il live, c'è il form disponibile online, iscrivetevi gratuitamente www.radio24.it e poi ci vediamo, ci sentiamo anche con Mauro Ottolini e Susan Monix il 26 di giugno qui in via Monterosa 91. Grazie a Fabio Cantadori, grazie a Tiziano Bonini e a Margherita Ina, grazie soprattutto a Rino, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Max. Massimo, vivo a Caronno in provincia di Varese, la storia di domani è la mia e parla di un tentativo di omicidio in crociera. Questa è la mia storia e io sono qui.